7. Ascolta e controlla. 1. Ridendo e scherzando, a volte si dice qualche spiacevole verità. 2. In questo negozio si riparano scarpe e borse. Il conto si paga in contanti. 3. Qui non si accettano assegni e non si fa credito. 4. Anche se si raccontano molte storie su quella persona, in realtà non si sa molto di lui. 5. In italiano si usano molti modi di dire, come per esempio «non si vive di solo pane». 6. In italiano si usa spesso questo proverbio «parola detta e sasso tirato non tornano indietro». E significa che si deve fare attenzione quando si parla.